Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Europa 24. Oggi ripartiamo da Ebola. Sconfiggere il virus una volta per tutte. Questo è l'obiettivo di fatto della Commissione europea, che ha annunciato 8 progetti per un valore di 215 milioni di euro, incentrati in particolare sulla messa a punto di vaccini e test di diagnosi rapida. L'Unione Europea vuole essere in prima linea nella ricerca, dice Carlos Moedas, commissario europeo alla ricerca, dopo gli aiuti umanitari, l'assistenza e il coordinamento internazionale. Ma intanto un dato è certo, i contagi sono in calo. E allora, esiste ancora l'emergenza Ebola o si sta andando verso la conclusione dell'epidemia? Alessandra Schepisi lo ha chiesto a Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani. Se a settembre si prevedeva di avere entro gennaio 1,5 milioni di casi, fortunatamente noi non abbiamo avuto 1,5 milioni di casi. Molti di meno. 20.000 casi. Sì. Era un allarme eccessivo? Non si può dire che sia stato un allarme eccessivo, perché per la prima volta questa malattia è presentata in maniera totalmente diversa, in maniera subdola. Quali sono le previsioni per il futuro? Che l'epidemia possa avere casi, molti di meno, ancora per 3-6 mesi. Entro la fine del 2015 potrà essere sconfitta? Vedremo, intanto dovremo vedere giorno per giorno che cosa succede nella dinamica dell'epidemia e secondo se non ci siano ulteriori riprese. Intanto una cosa però ha dimostrato di funzionare: la mobilizzazione internazionale, grande coordinamento dei laboratori che è fatto da questo programma europeo dei laboratori mobili, dai CDC americani. Sui vaccini invece a che punto siamo? Sui vaccini sta per essere aperta la fase, i risultati del trial vaccinale sono stati pianificati con un finanziamento importante della Commissione europea e del governo americano, studi su 3 vaccini principali. Non è detto, visto come sta andando l'epidemia, che questi saranno utili a controllare questa epidemia. Sicuramente se funzionano potranno essere utili per controllare altre epidemie o singoli casi sporadici. L'analisi del genoma dell'Ebola intanto svela che alcune modifiche intervenute negli ultimi decenni sui suoi geni possono rendere inefficaci molti dei farmaci oggi in corso di sperimentazione. Insomma, un rischio forte che naturalmente non è risolto, diciamo, dagli importanti passi avanti compiuti in questi mesi. E ora cambiamo tema. La Corte di Strasburgo ha stabilito che per i nonni vedere i nipoti è un diritto ed ha condannato l'Italia a pagare 16.000 euro per danni morali a Franca Manuello e Paolo Nevi, che non hanno potuto incontrare la nipote per 12 anni a causa di una decisione dei tribunali italiani. La Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano a pagare 16.000 euro per danni morali a una coppia di nonni torinesi che per ben 12 anni non ha potuto vedere la nipotina. I giudici europei hanno stabilito che i tribunali italiani non hanno tutelato il diritto dei nonni e del minore ad avere la loro vita familiare affettiva. I rapporti dei nonni con la piccola si erano interrotti nel 2002, quando la nuora aveva accusato il figlio di aver abusato sessualmente della piccola. L'uomo poi era stato assolto nel 2006 perché il fatto non sussiste, ma i rapporti nonni-nipote non erano stati ripristinati. Abbiamo chiesto all'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace come tutelato questo diritto in Europa. Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti è molto più seguito, osservato e tutelato da tempo da quanto non avvenga in Italia. Mentre in Italia c'è stato uno spiraglio normativo con la legge sull'affido condiviso e c'è stata finalmente una norma specifica nel novembre 2012 con la legge che ha parificato i figli naturali e i figli legittimi, legge nella quale finalmente si dà lo spazio ai nonni anche di rivolgersi ai tribunali per far valere questo diritto, nell'Europa invece è stato sempre considerato in linea con quanto avviene in America, dove se ne è occupata addirittura la Corte Suprema. Quindi cosa succede a un non europeo, magari francese? Succede che il nonno che viene escluso per volontà della nuora, del genero, a frequentare il nipotino che ha sempre frequentato, ma anche se non l'ha frequentato, questo nonno nonno si rivolge al tribunale e gli viene dato un diritto di visita e di frequentazione, esattamente come ha il genitore nelle separazioni. I nonni anche in Italia e così come in Europa ce l'hanno come diritto proprio, ma un diritto proprio che nasce dal diritto del bambino a poter frequentare e coltivare le proprie radici e il tessuto parentale che fa parte della sua storia di vita. Bene, con questo è tutto per oggi. Naturalmente Europa 24 torna come di consueto stasera intorno alle 21.30, l'appuntamento ancora per domani alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.